Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Signor Presidente, e dove vuole che sia cominciato il pasticcio? A Tor di Val, regolare, all'ippodromo, nell'inferno del gioco delle corse. Signor Presidente, no, dico, lei ce l'ha presente il mondo delle corse? Sarebbe a dire tutta quella gran caciara di gente che si raduna negli ippodromi per scommettere sui cavalli, ce l'ha presente? Purtroppo forse oggi neppure un'idea di Mandrake basterà a salvare dalla chiusura l'ippodromo di Tor di Valle, uno degli impianti di trotto più grande d'Europa, inaugurato il 26 dicembre del 1959 e reso celebre anche dal film di Steno Febbre da cavallo. Il 30 gennaio infatti sarà l'ultimo giorno di corse e poi tutti a casa. Ad annunciarlo la SLC-CGL dopo un incontro tra le organizzazioni sindacali, le RSU, la proprietà e la società Tor di Valle SRL, già in liquidazione, che gestisce l'impianto. Durante l'incontro la società ha comunicato la chiusura dell'ippodromo e il licenziamento di tutto il personale. Un tradimento, sostengono i sindacati, per i circa 50 lavoratori che in questi anni hanno garantito e contribuito con un impegno straordinario al regolare svolgimento dell'attività, nonostante i continui ritardi. La maggior parte degli ascoltatori di Rama, che ce ne importa se chiudono l'ippodromo meglio, così tante famiglie non si rovineranno scommettendo sui cavalli. Era un ambientaccio, brutta gente, intorno alle corse dei cavalli. Poi sono memori del film Febbre da cavallo, in cui c'era una compagnia fantastica e rutilante di sfigati che però aveva compulsivamente eroso la propria esistenza nella scommessa dei cavalli. Beh, invece vi dico che la chiusura dell'ippodromo di Tor di Valle è un problema che riguarda tutti. Domani chiuderà questo luogo storico per gli appassionati di cavalli, comunque esistente nella memoria collettiva, è uno dei tanti sintomi di un settore che è fortemente in crisi. E se vi dico che intorno a l'Ippica in Italia gira un indotto che sta tagliando fuori dalla capacità di avere una vita dignitosa 50.000 famiglie, forse il problema può essere un pochino più preso come qualcosa che riguarda tutti. Io non ho nessuna competenza nel campo delle corse dei cavalli, non ho nemmeno mai avuto questa passione, ma questo non fa sì che questa mattina con curiosità torni su un argomento sul quale mi ero soffermato qualche settimana fa e avevo visto una grande risposta di pubblico. Qual è il mio punto di vista, che sarà immediatamente o confutato o confermato dall'ospite qui in studio, e fra poco vi presento, che in realtà nel campo generale del gioco, delle scommesse, del diritto lecito di ogni persona di provare il piacere e la passione in qualcosa che non sia semplicemente, totalmente ed eticamente accettato da tutta la comunità, rientra anche il fatto che le scommesse di cavalli, il gioco dei cavalli, la passione attorno ai cavalli, attorno all'ippica, che è un fenomeno mondiale, unico, e in tutto il mondo viene considerato come qualcosa che fa parte comunque di un lecito passatempo che tocca una fetta rispettabilissima della società. Nel nostro paese viene considerato, sempre stato considerato, come una specie di passione da bassi fondi. E in un momento in cui, da un certo punto di vista, c'è un espandersi totale della possibilità di percorrere, anche se in maniera meno diretta, meno sanguigna, meno corporea e viscerale, la stessa passione attraverso i vari e tantissimi fenomeni di gioco online, insorge un generale senso di riprovazione, di pubblica esecrazione nei confronti di quella che viene chiamata ludopatia, che senz'altro sarà un problema, ma che non è strettamente legato alla crisi del mondo dell'ippica. E per questo, tra le tante crisi che si consumano, c'è un'importante e sanguinosa crisi dalla quale nessuno, ma nemmeno da un punto di vista istituzionale, sembra volersi occupare. Luigi Riccardi, buongiorno. Buongiorno. Luigi Riccardi, lo ricordate, è un allenatore di cavalli da corsa, da galoppo, allena cavalli puro sangue, li porta in giro per il mondo. Quando lui arriva qui da noi la mattina alle 10 per parlare a Melo, che va già in piedi da alcune ore perché ha già fatto gran parte del suo lavoro. La mia sintesi, Riccardi, è troppo sommaria o tocca dei punti di verità? Ma è tutto vero, nel senso che noi la scommessa ippica si porta dietro quello che c'era di, c'è di negativo dietro alle scommesse in generale, in quanto prima c'era solo e si lavorava in totale monopolio. Quindi quando c'è stato sono entrate le scommesse sportive e tutto il resto, che sono sicuramente più competitive della scommessa ippica, noi ci siamo tenuti dietro questa immagine. Quando è accaduto così questo? Quando è finita, diciamo, l'era del monopolio? Di preciso non me lo ricordo, però sarà una decina d'anni più o meno. E la crisi si è cominciata ad avvertire da allora? Ma diciamo che prima era un settore che si autofinanziava e funzionava benissimo, la scommessa andava. C'è stato un momento dove su di noi e sulle agenzie sono entrate le scommesse sportive senza pagare nessun tipo di pegno. Quindi lì forse dovevamo, le nostre autorità, le persone che contavano all'epoca dovevano un attimo puntare i piedi e magari chiedere un aiuto per giustamente far entrare una competizione che poi ci ha demolito, ecco. Io ho detto 50.000 famiglie di indotto attorno al mondo ippico, l'ho visto da un volantino. Voi avrete venerdì una manifestazione sindacale, cioè quindi avete anche delle richieste da fare. In che senso siete stati dimenticati? E poi questo indotto come può essere descritto? Chi si occupa di ippica? A parte, diciamo, le persone che le vediamo che corrono sui cavalli, cosa c'è dietro? Uno dei problemi più grossi è che la scommessa ippica ha un costo differente dalle altre scommesse, nel senso che stampare un gratta e vinci non costa nulla, fare una corsa ai cavalli ha un costo molto alto, perché dietro ci sono allenatori, fantini, veterinari, ippodromi, società di tutto, produttori di foraggi. C'è una filiera che ha un costo e si riversa poi nel costo finale della scommessa, quindi non è competitiva. Per questo si richiede, e da anni che chiediamo, una riforma che anche per legge doveva essere fatta quest'anno, però il governo non ha fatto una riforma proprio della scommessa ippica. E cioè di lasciare, diciamo, di cedere una percentuale più alta, diciamo, a chi... Renderla competitiva. Cioè il prodotto corsa di cavalli è cambiato. Cioè è cambiato tutto il panorama. Il prodotto corsa cavalli è rimasto identico. Quindi si continua a vendere il prodotto corsa come se fosse il prodotto di 30 anni fa. Non c'è stata ristrutturazione di nessun genere. Senti, ma questo è un fenomeno tipicamente nazionale, italiano, Riccardi. La crisi dell'ippica, come la sentiamo noi, la sentono in altri paesi. Tu che porti spesso i tuoi cavalli in giro per l'Europa. Ma no, assolutamente no. È un settore considerato di lusso all'estero e considerato di lusso da noi per il redditometro, che poi di fatto non è così. Quindi all'estero non c'è crisi, anzi le aste delle vendite dei cavalli e il mondo dei cavalli, gli ippodromi sono pieni in tutto il resto del mondo. È solo un fatto italiano. Purtroppo non c'è più un ente tecnico di riferimento, non c'è più anche un ente politico in questo momento. Quale sarebbe chi si dovrebbe occupare di voi? 12 anni fa sono entrati i politici, hanno preso in mano la situazione e hanno demolito tutto. Oggi difficile parlare di cavalli se non si hanno competenze, non è un argomento che si improvvisa. Certo. Cominciano le prime telefonate, 800 24 00 24. Fate parte di questo mondo, di questo indotto che è così duramente colpito. Avete un'immagine romantica, siete appassionati di cavalli. Questa è la mattina per parlare di un argomento di cui non parla mai nessuno. Mario, buongiorno. Buongiorno signor Nicoletti, dottor Nicoletti. Cosa fa lei? Io faccio l'autotrasportatore, il vannista di cavalli, praticamente faccio solo quello, cavalli e asini. E questa crisi sta tagliando le gambe un po' a tutti, noi del settore praticamente. Cioè lei risente di questa crisi e in teoria potrebbe far parte di queste 50.000 famiglie che per la crisi dell'ippica cominciano a sentire fortissimo, anzi drammatico, il disagio. Beh sì, giustamente... Io con mio fratello abbiamo investito qualche tempo fa per comprare il primo van e poi serviva un van più grande e quindi abbiamo due van che sarebbero gli automezzi che trasportano i cavalli. E lavorando giustamente con il nostro Stato ci chiede l'anticipo sulle tasse dell'anno prossimo e ogni anno se riprende dal, porta ai nostri conti correnti i soldi. Quando 7 mesi non vengono pagati, sti poveri... È caduta la linea, adesso vediamo se lo recuperiamo. Ingegner Elio Pautasso, buongiorno. Buongiorno. È il direttore dell'ippodromo di Capannelle. Sì, buongiorno. Ci riesce a descrivere esattamente cosa è cambiato in questi ultimi anni? Perché è un settore fiorente che coltivava un indotto importante di lavoratori, creava lavoro, creava benessere, improvvisamente è in crisi. Il problema è politico, il problema è di una scelta che non è stata fatta. Se negli altri paesi europei, all'estero in generale, in tutto il mondo, il settore è fiorente, perché da noi è in crisi? Come diceva prima Riccardi, il tutto inizia con la liberalizzazione dei giochi in Italia, che ne siamo nel 1998-2000. Lo Stato capisce che può ricavare molti denari da questo settore, liberalizza, legalizza e quindi fa una grande opera. Questo ci sta, di legalizzazione. Noi, diciamo, come settore siamo stati, come dire, politicizzati, come diceva Riccardi, e però non abbiamo avuto la giusta attenzione da parte di chi ci ha governato fino ad oggi, che è questo ente tecnico chiamato UNIRE, Unione Nazionale Incremento Razze Equine, che ha pensato più a gestire se stesso in ogni settore, quindi il settore è stato abbandonato, aveva bisogno di profonde riforme, riforme regolamentari, riforme di organizzazione, riforme di promozione e riforma della scommessa per renderla più appetibile. Ecco, però questo vorrei capire un po' meglio, che siccome in tutto il mondo si scommette, e logicamente non è che si può affermare l'idea che nasce il gioco online, che le persone vogliono fare altri tipi di attività, vogliono giocarsi a loro piacere di scommettere. Io in questo non sono assolutamente moralista, ognuno faccia quello che vuole. Ma detto questo, cosa doveva cambiare nel campo dell'ippica per essere adeguata? Perché se in altri paesi sono adeguati, com'è da noi è stata mortale questo passaggio al gioco online, alle scommesse di tutti i tipi? Perché le altre scommesse hanno ancora tuttora un costo per lo scommettitore più basso, nel senso che hanno un ritorno di vincita percentuale verso gli scommettitori molto più alto, e quindi questo lo scommettitore lo sa benissimo, lo capisce, e quindi dirotta i suoi, chiamiamoli investimenti, oppure insomma il suo divertimento verso forme di gioco che hanno una maggiore remunerazione, e questo fa sì che il movimento delle scommesse cala e quindi cala il finanziamento. Quindi non si è considerato che dietro l'Ippica sono cavalli da allevare, da riprodurre, da mantenere, da selezionare, che ha un costo alto. Ma la soluzione sarebbe far pagare di più la scommessa, dare montepremi più alti, girare alle persone che lavorano nel settore una percentuale più alta delle scommesse? Qual no, è? Questo sarebbe ancora peggio, perché ridurrebbe il ritorno, non gioca più nessuno. Non gioca più nessuno, quindi bisogna calare questa percentuale per far sì che la scommessa ritorni competitiva. E poi bisogna fare altre riforme tecniche della scommessa, quindi cambiare i tipi di scommessa, fare, come dire, un restyling di prodotto, come si fa con le macchine, si cambia nelle macchine, si fa la fiancata più stondata, eccetera. Nelle scommesse bisogna fare questa cosa. Cioè non c'è stata un'idea imprenditoriale in questo settore? In assoluto. L'ha lasciato appassire piano piano? Esatto, è stato sempre gestito dallo Stato e quindi nessuna idea imprenditoriale, tant'è vero che noi, la nostra parte degli ippodromi, la nostra confederazione, ha proposto una riforma di una semi-privatizzazione del settore, appunto per dare una spinta innovativa, che è quella che è mancata negli anni, l'innovazione di tutto, del prodotto, della corsa, dei regolamenti, del marketing, della pubblicità. Ma com'è la situazione? Visto che stanno chiudendo gli ippodromi, visto che ci sono situazioni di tensione anche in altri ippodromi, si sente, si comincia a respirare che ci sia qualcosa che stia andando in maniera sempre più rovinosa. Cosa si può fare in questi tempi? L'importante è che perché noi dobbiamo ancora riscuotere tutte le nostre aspettanze del buona parte del 2012. Siamo fermi per esempio a maggio, noi ippodromi, maggio del 2012, e i montepremi, le scuderie, gli allenatori, i fantini sono fermi a giugno. E questa è la prima cosa da fare, è dare corso ai pagamenti che abbiamo, cioè delle nostre aspettanze che abbiamo maturato da maggio in poi, e questa è la prima cosa da fare. E poi bisogna portare avanti questa riforma importante, questa secondo noi privatizzazione del settore, per poter dare, come dire, una spinta manageriale, imprenditoriale e innovativa a tutta questa riforma, che altrimenti lo Stato da solo non sarebbe autonomamente non sarebbe in grado di fare. Esiste anche una maniera per rappresentare la crisi, che quando i lavoratori, quando le persone sono interessate a certi settori, si fanno sentire. Non so quanti di voi sono resi conto che in realtà intorno a Lippica esiste un movimento forte, un movimento di protesta forte, i lavoratori si fanno sentire, però non so perché stranamente rispetto ad altre categorie vengono lasciati in un secondo piano in quella che è appunto il racconto dei media. Sono calati vistosamente i ricavi dell'ippodromo di Agnano. Le corse dei cavalli e tutto il giro di scommesse che orbita intorno al mondo dell'Ippica hanno subito un calo di circa il 48%. 4.600.000 euro del 2011 a fronte dei 2.435.000 euro del 2012. Questi numeri che attestano le problematiche che da tempo stanno denunciando attraverso una serie di manifestazioni come il blocco delle corse dei cavalli, i lavoratori della struttura. Questi sono, diciamo, lavoratori dell'ippodromo di Agnano che appunto protestano per la crisi che c'è anche da loro. Mario Masini, buongiorno. Buongiorno a voi. Mario Masini è presidente dei proprietari di cavalli da galoppo. Come sentite anche voi, diciamo, l'eco, il riverbero di questa crisi? Visto che stiamo trattandola sotto vari punti di vista, abbiamo detto un numero importante di famiglie, di indotto viene toccata, in particolare chi investe come professione in dei cavalli, che sono dei beni molto preziosi, ma anche molto, molto fatiscenti, molto deteriorabili, hanno una loro durata, un loro tempo, sentirà ancora di più la crisi. Ma noi la sentiamo per due ordini di motivi. Uno tipicamente etico, perché io credo che il proprietario sia una delle gambe fondamentali del settore ippico. Se non c'è la passione, se non ci sono i proprietari, difficilmente potrà progredire il settore. E etico perché i proprietari e quindi le scuderie garantiscono una gran parte del mondo lavorativo, delle unità lavorative all'interno degli stessi ippodromi, ma anche all'esterno, perché sulle scuderie gravitano pure tutti i servizi, dalle mascalcie alla parte agricola. E la seconda eticamente, perché i proprietari da sempre hanno fatto una grande battaglia a tutela della tipicità del prodotto italiano, che ancora oggi primeggia in Italia e all'estero, sia nel quindi abbiamo un'eccellenza in questo settore. Abbiamo una grande eccellenza, abbiamo fatto la più grossa battaglia della nostra vita sotto profilo etico, che è quello del divieto di macellazione del cavallo da corsa. Io credo che se si mettono i proprietari nella condizione di non poter accudire i propri cavalli, noi andiamo incontro anche ad un gravissimo rischio, che è quello dei macelli clandestini, se non sono stati scoperti già due in Italia, e questo sarebbe una cosa terribile. Aggiungo, cioè, di fronte alla crisi si mangiano i cavalli da corsa? Di fronte alla crisi è aumentato stranamente il consumo di carni equine che non possono e non devono essere per legge quelle del cavallo da corsa. Io vorrei far capire, quando diciamo allevatori di cavalli da competizione, non è esattamente la stessa cosa di un allevatore di galline. Il cavallo ha una sua personalità anche negli animali, e per questo forse mi prenderò gli strali delle popolazioni vegane. Esistono comunque delle classificazioni. Un cavallo è qualcosa che ha una sua unicità, una sua personalità, ha un suo percorso, una sua vita, per quello che io possa capirne. Quindi sapere per un allevatore di cavalli da corsa che in realtà di fronte alla crisi diventano bistecche è una delle cose più tristi che possono accadere. Simona, buongiorno. Sì, Simona. Simona? Pronto? Sì, Simona, la sto ascoltando. Buongiorno, a parte un saluto, io volevo portare una testimonianza per la crisi che si sta diffondendo nell'Ippica, che ormai noi sentiamo. Io sono un veterinario per cavalli, mi occupo da 20 anni di riproduzione, proprio di allevamento, come parlava del cavallo. Quindi diciamo una categoria, è uno specifico nella sua categoria, lei si occupa di riproduzione cavalli, non potrebbe riconvertirsi a curare la febbre gattini, diciamo, questo è il suo mestiere. Assolutamente, perché poi il cavallo è un animale estremamente delicato e ha non solo un veterinario dedicato ai cavalli, ma ha tanti specialisti nell'ambito della veterinaria, la riproduzione, l'ortopedia, l'oculista. E volevo anche dirvi che, insomma, negli ultimi 15 anni la veterinaria ha avuto un'evoluzione incredibile nell'ambito del cavallo. Siamo arrivati a essere competitivi come negli altri paesi del mondo, in America, in Francia, in tutta Europa. Quindi signora, lei mi stava segnalando un secondo settore d'eccellenza in un settore che in realtà è in crisi. Siamo bravi come allevatori, siamo bravi come veterinari, quindi per la cura, l'accudimento e la riproduzione, però il settore è in crisi. Lo trova paradossale? Assolutamente paradossale, anche perché io l'ho lavorato sia in America e sia ho girato tanto l'Europa e negli altri paesi del mondo. È un settore che non solo è un lusso tra virgolette, perché non è un lusso da redditometro, è un lusso perché è un ambito dove in Inghilterra, cioè, ci sono tradizioni come la regina d'Inghilterra che ha i cavalli da corsa. Da noi viene considerato una cosa orribile, le scommesse sono denigrate in una maniera mostruosa e il settore oggi, che non è stato mai ristrutturato, 10 anni fa, era 12 anni fa, ancora era in mano ai privati, agli enti privati, e effettivamente avevamo delle risorse per cui c'è stata un'evoluzione mostruosa. Oggi siamo tanti veterinari per strada. Allora si fermi un attimo, insomma, Luigi Riccardi, in conclusione, prima di mandare le formule, non mi sembra aver capito che in realtà il vero problema del settore è che è rimasto antico. Come se oggi accendessimo la TV e vedessimo ancora Studio 1 in bianco e nero. L'ippica in Italia non si è evoluta nemmeno dal punto di vista dello spettacolo. Ha dietro delle grandi maestranze tecniche, i cavalli sono ottimi, l'allevamento dei cavalli è ottimo, la cura dei cavalli è ottimo, ma lo spettacolo in sé è rimasto indietro, non è così? Ma sì, è proprio così. Cioè sono tristi, rimasto, gli ippodromi sono ancora come quelli di febbre da cavallo. Ecco. Sì, sono rimasti così, adesso chiudono, nel senso che il problema grosso è che chiudono Tordivalle, San Siro a Milano, Trotto, altri ne hanno già chiusi, quindi ci sarà anche un problema di gestione di questa chiusura. Qua non c'è programmazione. Cioè, qualcuno è contento, ci faranno allo stadio, ci andremo a giocare, sì, a vedere la Roma. Bene, un altro è stato venduto Torino 6 o 7 anni fa, voglio dire... ci vuole anche una gestione di questa chiusura, perché il problema l'hanno evidenziato prima, ci sarà un problema di dove vanno a finire questi cavalli. Li stanno mangiando, come ci ha detto prima. Sì, il problema poi dei macelli clandestini e il divieto alla non macellazione è proprio perché andrebbero a finire sulle tavole degli italiani... cioè, i cavalli da corsa, e non è possibile. Con l'investimento che c'è stato poi sul cavallo, è stato creato, è un oggetto che comunque può avere una sua vita anche quando non corre più. Il cavallo da corsa comunque ha una sua esistenza, ha una sua dignità di esistenza. Mangiarselo mi sembra non paragonabile all'investimento che c'è stato fatto sopra. Melog, la realtà condivisa. In un'epoca tecnologica cambiano anche i giochi. Slot machine, videolotterie e videoterminali sono i nuovi dominus di questo mercato. Le scommesse e i giochi online sono in alcuni casi raddoppiati. Staccano così le sfide alla fortuna stile vecchia maniera, come lotto e lotterie. Nelle scommesse sportive il calo più vistoso riguarda l'ippica. Se la situazione dei giochi che fanno capo ai monopoli è variegata... 800240024, parliamo della crisi dell'ippica. Vedo che nel pubblico comunque ci sono persone che prendono a cuore quello che non sembra un problema generale, un problema pubblico. C'è anche chi mi accusa, dice tu difendi sempre queste deleterie espressioni di umanità, la gente scommette, si rovinano le famiglie. Ma le famiglie si rovinerebbero comunque, chi ha in sé il virus di rovinare la propria famiglia, le rovina col grattavinci, le rovina con le troie, le rovina in qualunque altra maniera possa immaginare. Non è che il cavallo e l'ippica sono fonte di rovina delle famiglie in sé, a priori. Ferdinando, buongiorno. Buongiorno, allora io vorrei dire, perché parliamo solo di cavalli da corsa? Parliamo anche di cavalli di una persona come me che settantenne aveva coronato di possedere un cavallo e mi hanno detto che non me lo potevano più tenere perché lo dovevo denunziare come mia proprietà personale, per cui entravo nell'ottica del redditometro. Cioè lei dice che le tassano il cavallo da... Certo, è il cavallo con cui io uscivo a 70 anni, era il mio sogno della gioventù, quando mio padre mi ha regalato un cavallo giù in Calabria, che era un contadino, e a 70 anni ero riuscito a comprarne uno quando sono andato in pensione per uscire a fare una passeggiata, e me lo teneva un contadino. Questo ha detto... lo devi denunziare a tuo nome perché non posso tenerlo qui se non è denunciato. E quindi sono andato dal commercialista e lui mi ha detto: sì, se lo denunzi a tuo nome viene considerato come bene di lusso, per cui vieni tassato. A me sembra una cosa assurda. Sentiamo se Luigi Riccardi, che è un allenatore di cavalli da corsa, può dare una risposta al nostro ascoltatore. Il sogno della vita di un pensionato, bellissimo racconto, è comperarsi un cavallo. Si compra il cavallo, lo lascia in uso al contadino, cioè a cura al contadino. Il contadino a un certo punto gli dice: guarda, non puoi più venire qua a farti una passeggiata e darmi qualcosa perché io te lo tenga, devi denunciarlo, è cambiata la legge. Cosa significa? Significa che il cavallo è all'interno del redditometro e quindi se tu possiedi un cavallo si presuppone che un reddito, percepisci un reddito, adesso di preciso non lo so, però molto alto, molto mi sembra alto, che sia 30.000 euro a cavallo, quindi è sicuramente penalizzante per soprattutto una situazione che non è, come dimostra la situazione del signore che ha chiamato adesso, cioè non... Se il pensionato si fosse comprato una motocicletta di quelle grandi, grosse, che costa probabilmente più del suo cavallo, non sarebbe stata equiparata alla spesa, perché il cavallo ancora mantiene, in questo caso è un genere di lusso, e quando bisogna sostenere l'ippica e come fonte di gioco e di scommessa viene considerato come qualcosa da basso fondo, come mai? Non lo so, è rimasto così, il redditometro non si è aggiornato, anzi l'hanno continuato a mettere, probabilmente in alcuni settori oggi nel salto ostacoli o nel dressage o nel completo probabilmente ci sono situazioni magari più simili a una possibilità di tassazione all'interno del redditometro e di gestione del redditometro, ma il 99% è una situazione dove non corrisponde alla realtà, nel senso che non ha un costo così alto mantenere un cavallo e il signore non può andare a farsi una passeggiata o il piccolo proprietario avere un cavallo alle capannelle o negli altri ippodromi e godersi un bene che non presuppone quel reddito così alto. Adriano, buongiorno. Sì, buongiorno. Complimenti per la trasmissione, intanto, dottor Nicoletti. Ma perché a lei interessa oggi questa trasmissione? Io lavoro per un'azienda di farmaci, sono interessato perché è logico che con la crisi del settore, gli anni, essendoci meno cavalli, la gente spende di meno e anche nel mondo dei farmaci si risente di questa crisi. Ecco, io volevo dire che il mondo dei cavalli è legato... era legato non solamente alle scommesse ma anche al TTIP, e con questa crisi bisogna dirlo chiaramente e finalmente qualcuno scopre questa cosa, moltissimi cavalli che non potrebbero essere macellati oggi per gli enormi costi di gestione che hanno questo tipo di cavalli vengono o macellati clandestinamente o vanno nei paesi dell'Est Europa, dico la Croazia eccetera, dove non esiste il vincolo della non macellazione del cavallo sportivo e poi ci ritornano qua come bistecche. Ecco, c'è un'altra cosa. Ma questo è singolare, io spesso ho delle simpatiche discussioni con gli animalisti estremi, quando dico che aspetto gennaio per mangiarmi le salsicce, poi mi mandano le foto dei maiali macellati per spaventarmi, via dicendo. Dico: ma possibile che invece sui cavalli nessuno si impietosisca? Io ho il mio profilo Facebook pieno di poveri cuccioletti abbandonati, di poveri gattini con la diarrea tutti i giorni, guarda questi poveri gattini. Nessuno si accorge che in realtà ci sono un numero impressionante di cavalli allenati per un attimo attività, allevati con amore, con cura, con passione, con metodo, con mestiere, che attraverso mercati clandestini ci ritornano sotto forma di carne in scatola o di hamburger. Sì, ecco, un'altra cosa, poi tra l'altro questo tipo di cavalli che sono, mentre nel settore del salto ostacoli o del cavallo d'affezione, da passeggio eccetera, risente della crisi che è fisiologica generale, questo del cavallo da corsa, del cavallo sportivo, risente di una crisi fortissima e tra le altre cose questo tipo di cavalli poi è bene sapere che è difficile riciclarli in animali da selle eccetera, perché essendo cavalli che cavalli o trottatori o puro sangue via dicendo, per cui hanno una vitalità e una cosa, per cui il loro destino è veramente per conto mio in forte, cioè rischiamo un'estinzione tra virgolette di un animale sportivo che è stato frutto di anni e anni e anni di selezione. Luigi Riccardi, tu che li alleni, corrisponde in realtà a quello che dice, che c'è una vita professionale corta, poi con un cavallo con un puro sangue certo non è che si può mandare al maneggio e farci salire sopra il ragazzino. Ma diciamo che c'è una buona probabilità di riciclare i cavalli e sicuramente in maniera positiva, quindi maneggi anche per tante, si possono tante, ricondizionare salto ostacoli per i film, per tante cose. Il problema è nel momento in cui si propone una quantità di cavalli molto alta. Quindi lì... ce ne sono troppi. Troppi, perché è stata troppo drastica e non è stata gestita la chiusura di tante situazioni. Quindi sono cavalli disoccupati, c'è un numero enorme di cavalli disoccupati, diciamola così per paradosso. Un numero enorme di cavalli disoccupati e un numero enorme di cavalli che sono a rischio sia per la vita e per la macellazione clandestina, ma anche per le persone che si ritroveranno i prodotti in circolazione. Perché se c'è un divieto ci sarà un motivo per cui è vietato macellare i cavalli da corsa. E qual è il motivo? Il motivo è che sono gestiti anche il signore sono gestiti, quindi se hanno un raffreddore o se hanno una febbre vengono somministrati dei farmaci, e la macellazione clandestina sia dei cavalli ma di tutte le carni Non sono commestibili. Non dovrebbero essere commestibili prima di un determinato tempo, quindi ecco. Se io lo macello 15 giorni e magari gli è stato somministrato un antibiotico o altre cose, non sono garantito, è una cosa clandestina. Il rischio è questo. Non è carne allevata per essere mangiata, diciamo la verità. Certo. Sono cavalli allevati per un'azione tipo sportivo. Luca Conti, buongiorno. Buongiorno a tutti. Luca Conti di Isibet è concessionario nella raccolta di scommesse sportive. Come sta cambiando? Come è cambiato e qual è stato il cambio drammatico nel campo delle corse dei cavalli riguardo alle scommesse? Il dramma è che cambio non c'è stato, appunto, come si è già detto, ascoltavo la trasmissione, il vero problema è che nel 97 sono entrate nel mercato altre forme di scommesse, sostanzialmente le scommesse sullo sport, le scommesse sportive a quota fissa sullo sport, e il prodotto ippica è rimasto invariato, l'ippica e il suo management è rimasto inerte. E lì occorreva averci un'idea imprenditoriale fantasiosa, sì. Ecco, inventarsi qualcosa. Cioè non ci voleva neanche un master, voglio dire, in economia, insomma, ecco, sostanzialmente, diciamo, proprio per essere divulgativo, per parlare in soldoni, sì. Le scommesse sullo sport rendono indietro allo scommettitore circa l'80%, le scommesse sulle corse dei cavalli rendono 70%, anche meno, e lo scommettitore ha sensibilità su questa cosa qui, e chiaramente la stessa cifra spesa divertendosi giocando sullo sport gli dura di più che spenderla giocandola sull'ippica. C'è anche un altro fattore, diciamo, scommettere sui cavalli, c'è tutta una liturgia che si basa su una competenza. Lo scommettitore sui cavalli deve essere competente. Il gratta e vinci può essere anche analfabeta, esatto, basta prendere la monetina e gratta. Infatti, quello che ancora ci può salvare l'ippica, è il fatto che la scommessa sul cavallo è la scommessa più bella che esiste, la più gratificante, perché c'è uno studio, c'è uno skill, come si dice, dietro una preparazione, si può prevedere lo svolgimento della corsa, dura 2 minuti, è molto più gratificante per chi vince la scommessa piuttosto a grattare un gratta e vinci, come dice lei, ma anche piuttosto che scommettere su Napoli-Inter, questo è sicuramente molto più interessante e gratificante, quindi secondo me ancora la speranza c'è. Io le dico onestamente, non andrei a parlare di progettualità in faccia di persona, magari per telefono sì, ma a quelle persone che sentivamo prima da Napoli non ci andrei a parlare. Chiaramente bisogna fare anche degli interventi nell'immediato, però... Sì, perché mi sono sembrati anche abbastanza arrabbiati. Sì, ecco, appunto, non ci andrei. Melog. La realtà condivisa. Allora, Special Agent è un velocista puro, per cui andrà in testa, ma non può tenere la distanza. Quindi risparmia le energie. Va bene. Anche Indian Brun può andare in testa. Se vogliono tenerlo in coda, gli metteranno il morso d'anello. Invece, quello più pericoloso è Rosemont. Rimonta come un treno merci. Ti darà filo da torcere alla fine. Attento a non farti trovare impreparato al momento che deciderà di scattare. La pista è ancora un po' pesante per la pioggia di ieri, perciò sta lontano dallo steccato. Stai dove è più leggera. Io mi terrei al centro della pista. Sì, bravo. A parte questo, devi sentire l'animale. Questo è un film, Seabiscuit, l'allenatore sta dando le istruzioni, dimostra quanto dietro quei pochi minuti di corsa esiste un universo da scoprire, un universo di competenze, un universo di nozioni che occorre sapere. E proprio per questo la differenza della scommessa sui cavalli rispetto alle scommesse veloci, mordi e fuggi fatte in rete, richiedono un lungo tempo di attesa e soprattutto c'è un'altra fattispecie. E più si capisce di cavalli, più c'è possibilità di vincere. È azzardo fino a un certo punto, certo c'è l'imponderabile, ma ci sono delle condizioni per cui l'esperto di cavalli è quello che è più gioca, meglio gioca. In altri giochi è soltanto il caso a decidere. Mi ero interrotto con Luca Conti dell'Isibet, che è il concessionario nella raccolta di scommesse sportive. È un po' questo il senso, in realtà è un giocare che richiede competenza e passione, e oggi invece il giocare che più va è quello compulsivo, quello che può far chiunque, quello che fa distrattamente, e quello che è reiterato è sempre uguale e si affida soltanto al caso. Senz'altro è un giocare che richiede più competenza e passione, ma proprio per questo è un giocare che poi alla fine è più gratificante, perché si è vinto non solamente per merito degli altri, ma anche per merito proprio. E questo, da questo punto di vista, il monologo della scena finale di Febbre da cavallo è straordinario, perché spiega un po' tutto quello che è il gioco sulla scommessa ippica. Comunque, diciamo, tornando alla dura realtà, è chiaro che, come si diceva, bisogna fare degli interventi sull'immediato e si spera che arrivi lo sblocco di questi fondi che tutti aspettano, e senz'altro soprattutto i lavoratori di Napoli di cui parlavamo prima. Però è anche ora, anche se questo è un momento meno opportuno, per iniziare a parlare di progettualità, mettere le mani sul prodotto gradualmente, un po' alla volta, poi magari se tra 5 anni l'ippica sarà ancora viva, avrà anche un bel futuro, come lo ha negli altri paesi europei dove non c'è questa disparità di qualità tra prodotto sportivo, scommesse sportive a quota fissa e scommesse ippiche. Fermiamoci un attimo. Danilo, buongiorno. Buongiorno. Io telefono per ponendo una domanda che è molto vicino al mondo delle scommesse, cioè le ricevitorie di Lotto, Super Enalotto. Mi è stata proposta di rilevare una ricevitoria e tra i vari fattori che ho valutato per prima di decidere, insomma, c'era anche un fattore che mi dava un po' da pensare, cioè praticamente prendendo una ricevitoria uno ha anche i diritti, appunto lo Stato ti dà la possibilità di vendere gratta e vinci e le giocate Super Enalotto e Enalotto, ma dallo stesso tempo, visto che il sito Lottomatica fa una sorta di sito online dove la gente può acquistare e grattare online. Sì, però è interessante la sua domanda, ma è un altro argomento. Sì, però sì, diciamo che anche in questo caso l'online non può dare... non può essere concorrente, non può essere concorrente, ecco. Sì. Diciamo che nel caso dell'ippica non è un concorrente diretto, come dice lei, fanno la stessa cosa online, c'è la ricettoria, ma la gente poi se va online non viene da me. È diverso, è tutto l'apparato generale del cambiamento del gioco che non ha corrisposto a un cambiamento dello spettacolo ippica, forse è questo. Ruggero. Eccomi qua. No, io volevo dire una cosa, io abito a Milano vicino a San Siro, dove ci sono poi i cavalli, eccetera, e mi risulta che la SNAI, che è una di quelle aziende importanti che ha poi beneficiato di tutto il gioco e via, è padrona degli spazi e dell'ippodromo e di tutte le zone dove avvengono le corse dei cavalli, e mi sembra che circa 20 giorni fa è stata chiusa quella del Trotto. Pare che però si parla da anni di una grande speculazione, potenziale speculazione di tipo edile, quindi grande, cioè ci vogliono costruire, ci costruiranno i quartieri, i palazzi, quindi sì, ma di lusso, insomma, quindi robe da tanti soldi, e quindi dato che la SNAI è, diciamo, un po' in conflitto di interessi, perché da una parte ha il gioco gratta e vinci, dall'altra parte o robe simili, dall'altra parte i cavalli che potrebbe valorizzare e dall'altra parte può fare speculazioni. Cioè preferisce venderle ai palazzinari che... Esatto. Quindi... Questo può essere dalle sue parti ci sia questa situazione. Non credo sia per tutti gli ippodromi, per certi ippodromi è un po' difficile pensare ci costruiscano sopra, ma molte volte è semplicemente... Comunque è un'informazione che ci dà. Filippo, invece Filippo ha un altro argomento. Sì, buongiorno. Che non abbiamo ancora toccato. Sì, io volevo far notare che spesso... il cavallo non viene, la prima tappa non è quello del mercato clandestino della macellazione, bensì quello della dismissione dal circuito ufficiale e la immissione in un circuito totalmente clandestino delle corse. Lei ha notizia che si facciano queste cose? Sì, io vivo a Catania, al momento sono a Pavia. Avevo avvertito dall'accento. Sì, dove... Quindi dalle sue parti si fanno corse clandestine di cavalli? Sì. Non solo, volevo salare. Ma dove avvengono? Come avviene la corsa? Cioè c'è un ippodromo clandestino? No, nelle strade, è classico, per esempio durante le ore della notte, le 2, le 3 appena all'albeggiare, si chiude proprio la malavita. Sulle strade asfaltate? Sì, nei percorsi rettilinei, magari in tangenziale, oppure qualche extra cittadina, la malavita chiude con i suoi scagnozzi le strade dove a quell'ora magari non passa nessuno e si organizza una corsa che dura nell'arco di mezz'ora, chiudono, aprono e via, dove ruotano altissimi interessi. E volevo anche il paradosso, che a loro invece funziona, loro i soldi ce li fanno con le corse. Sì, appunto, quindi chi ha un cavallo da dismettere al circuito ufficiale non pensa a fare 1.000-2.000 euro per far macellare. Sì, prima lo passa la mafia che ci fa le corse clandestine. Non per forza proprio mafia, ma tutto quello che gira intorno alla malavita. E non solo, perché al sud c'è... Il sottogoverno della mafia. Sì, ma poi c'è il falso mito del mangiare il cavallo, che è la bistecca di, per esempio, a Catania è un classico, andare in strada e vedere chi fa il classico arrusto e mangia la carne di cavallo. A parte questo, il sindaco per esempio ci ha tentato parecchie volte di far finire questa cosa qua, ma è una tradizione. C'è anche il falso mito di mangiare la bistecca di cavallo che dà forza ed energia. Sì, alle mamme quando allattano, ai bambini appena nati. Ci hanno provato anche me quando ero piccolo, ma figuriamoci, io cervello, cavallo e fegato sono cose che non toccherò mai. Fermiamoci un attimo, no, voglio chiudere proprio con Riccardo su questo fenomeno qua. Il paradosso poi è questo, Luigi Riccardi, conoscendo l'ascoltatore di Catania, che in realtà il desiderio e la voglia di scommettere cedi e giocare attorno ai cavalli c'è, e laddove si ferma, diciamo, l'aspetto ufficiale, pubblico e trasparente, subito si ritagliano degli spazi illegali. Eh sì, è un problema anche questo, e soprattutto caratterizzato in Sicilia, dove ci sono queste corse, come ha detto il radioascoltatore. E poi c'è un altro, ci sono tutti i circuiti delle varie corse di paese, che da una parte possono essere positivi, sono sicuramente positivi, e però c'è anche questo rischio, sì. Grazie Riccardo, saluto, ci sentiamo domani. Voi.